di più perché c'è una ricetta mega trasmissione, li fa 10-0 a qualunque baracchino, non c'è niente da dire, per cui che cazzo stiamo a dire. Ma la cosa più ridicola quando vedo gli ali ancora intorno a 300-400 euro, ma io dico, ma la gente è scema. Sono tutti che si modificano, so. Ma è sempre un baracchino, una scatoletta, cioè io sinceramente a buttarci i soldi in un baracchino è fuori di te. Finché mi dici, mi c'ha il DAC, quello che c'ha Claudio, sai che quella è una radio rara, importante, di lì anche 400 euro si possono dare secondo me, perché è una radio di un certo tipo, di un certo livello, ma pigliamo un Saturneco a 300, 400, 500 e anche di più, per me è da scemi. Ma che sono tutti canti bazzi, cioè. No, mi dispiace. Infatti io quando avrò la possibilità mi prendo quel tipo di apparecchio lì. Almeno so che so anche che ho watt sotto, cioè ho potenza, no, non ho problemi. Ma a parte la potenza, il discorso della potenza è relativo, perché c'è il processore, ma ti di 10 watt è importante, e poi ne spara 80, ma c'è un apparecchio molto sofisticato per cui non hai problemi di disturbi di niente, naturalmente sei allineato, sei tutto a posto, ma poi ti attacchi 40 watt con un amplificatorino da 10, da 0, che non vale nulla, e disturbi mezzo mondo. Lo so. Quelli sono nati per fare altri tipi di cose e poi ti permettono, se gli hai fare un giusto abbinamento col suo microfono di serie, e c'è un bel apparecchio, ti tiri fuori massimo 10 watt, lo fai andare con 10 watt e come te ne hai 80 con una 48 con l'amplificatore. Lo so come funziona. Quando ti compri un amplificatore da 200-300 watt, ok, cioè, ma compara roba Gucci, che senso ha? No, non ha più senso, non ne ha, cioè i soldi ci compro una radio che mi spinge anche bene, mi spinge a batte veramente, non ci compro uno scorreggio, no. Lo grido. Claudio, ci c'è ancora? Claudio non c'è, ok, facciamo una chiamata generale sul canale 10, se qualcuno vuole entrare, avanti sul 10, riprendi tanto. Lo so, cioè sono belli, è la verità, io ce l'ho avuto, sono belli. Per certi tipi di usi spingono da una mala sorte, soprattutto quando è abbinato con l'amplificatore. Però cioè per altre cose, per fare questo locale non vanno bene. A Sabisi, infatti, io non capisco quelli che poi attaccano lineare in città. Quando stiamo parlando tra di noi, per dire, mi sono arrivato 9, sono liscio, poi le balle, io non sopporto le balle. Perché io sto molto attento ai segnali, quanto c'è, me ne accorgo subito uno appena attacca. Che bisogno c'è di pompare in città? Certo, se dobbiamo fare collegamenti lontano, a quel punto uno dice, mi ti sento appena, a quel punto ti dà un aiutino, ma in città, che quel cacchio ce ne frega. Capa. Io vado giù subito, io mi matesse. Sta arrivando bene comunque, te lo ripeto, adesso tutti i problemi li hai risolti, ti ascolto perfettamente, anche normale, non c'è bisogno. Poi così ti dicono, arrivi 9 più 25 anziché 9 e 15, e quindi tanto la radio, anche se sei 9, è sempre 5 la radio, ti ascolto perfettamente. A Capri io molte volte dico, non c'è bisogno di dare potenza perché tanto arrivi sempre più di 9 da me, ma magari per voi qualcuno glielo dà qualche volta, però molte volte è successo che c'erano problemi, che come attaccava si mangiava la radio, saturava, eccetera eccetera, però poi ultimamente ho visto che ha fatto dei belli abbinamenti e sta andando bene, per cui può anche andarci, ma siamo un po' lontani, ma in città uno è a 300, 400, 500 metri e attacchi il lineare. Lo so. E laggiù io che subito di un amplificatore, ma è un vizio mio, però va bene perché lo voglio usare, ce l'ho, lo voglio usare, lo voglio sfruttare, per quel motivo lì che lo faccio, si suda bene, va adesso. Guarda, se non guardo lo strumento neanche me ne accorgo che è cambiato niente. Da parte mia è sempre forte il segnale. Ma se glielo dico sempre, io lì continuo a fare un quel lineare attaccato, a voi leggi fino oggi con questo, ma per farti dire cosa, ricevi voi anche tu. No, è proprio un vizio che ho di usarlo, di capito, mi piace usarle. Adesso l'ho spento un pochettino, l'ho fatto andare, adesso l'ho spento perché no, non mi serve. L'amplificatore si usa, ti ho detto, quando a lunga distanza uno non ti sente, ma in città esci peggio, cosa pensi? Così ho detto a Gianni l'altro giorno, non credo che uno verrà 10 non ti capisco. Tu quando attacchi ti smonta la radio, è più brutta. Non mi ti segnala, beh, cosa mi stai facendo vedere? Non è meglio che ci bene di radio. Quando puoi servere attacchi, questo è il mio parere. Cioè come che io, a me non mi succede niente, perché se io attacco lineare a testa, la modulazione rimane la stessa. Anziché 9.30 arrivo 9.60, e beh, cosa cambia? Ma cosa cambia? Sì, vabbè, ogni tanto lo uso anche per l'umidità a me. Ah, no, vabbè, sto scherzando. Lo uso così, lo uso per farlo andare, capito, cra? Ogni tanto, perché ce l'ho e cosa, adesso è staccato. Ogni tanto per farlo andare un pochettino, ma adesso ci siamo solo noi e non occorre. Non serve proprio a niente, ti ho già detto. Serve solo a portarti via la radio e farti uscire male di radio. Tutto qua. Riprendi da me, un attimino che sto facendo cose io. Eia, ok, no, no, ma io non ne ho mai usato, guarda, ti ripeto, forse l'ho già detto più di una volta, a me anni fa me ne aveva dato uno Salvatore Maestrale, un 600 watt, una bestia, 20 kg pesava, a valvole, era una bestia, l'ho solo acceso per vedere come funzionava, ho visto c'era un problemino sul connettore d'antenna che non era saldato bene, faceva scintille, gliel'ho saldato e buh, non ho fatto mai neanche una prova di riesce a provare a trasmettere, ho acceso, mi ha dato una portante, una volta ho visto quanti watt tiravo, accordato e buh, ma chi conta l'antenna? Cioè se tu fai un rapporto, se c'è una buona antenna, una buona posizione, guadagni molto di più che mettere, per dire, il doppio della potenza o il triplo della potenza. Ah, così basta. Io sono fissato, cioè non è che sono fissato, ogni tanto li faccio andare per non tenerli fermi, capito? No, vabbè, ognuno già fa quello che vuole, te l'ho già detto, io la penso così. Aspetta un attimo, c'è gente che sta chiamando da fuori. Chi è che chiama Sassari? Chi è che chiama Sassari? Avanti. Ciao Manuel, buongiorno, come stai? Buon anno anche a te. Io è da un po' che non ti sento, è da un po' che non ti sento, no. Intanto so che non senti nessuno, infatti stavi chiamando. Vabbè, lo senti Oristano. Eia, dimmi. Un attimo che cambio radio. Sei Manuel? Ah, Dani, scusa. Ciao Dani. Com'è il tempo lì Oristano? Ce n'è neve? Ho capito, qua Sassari c'è un freddo da cagarci sotto, Dani. C'è un freddo da cagarci sotto. È un casino. Sì, c'è un pescio locale qua, intanto. Manco a passarteli. Adesso vediamo se Roberto è qua vicino a me, riesce a sentirlo, ma mi ha detto già che non senti nessuno. Antonio, manco a parlarne, è in una posizione bassissima, poi non sente. Vediamo un po' Roberto se ha cambiato radio, Dani, così te lo passo, vediamo se lo senti, è qua, insomma, vicino, nelle alture di Carbonati, dove sono io, dai. Vabbè, lo senti, Dani, da Oristano? Allora, con l'altro ricevitore lo sento basso, ma proprio quasi impercettibile, con questo non ce la faccio, lo sento, cioè sente QRM, non riesco a sentirlo, non so se lui mi ascolta, non ho sollevato niente, sono con la potenza normale, la solita potenza che utilizzo, che di conferma fammi da ponte tu Claudio, io con l'altro ricevitore l'ascolto basso, però devo passare, non è un trasmettitore, quello è un ricevitore. Ma l'hai sentito a Roberto da Sassari? Oh Claudio! Non so. No, Robè, manco a parlarne, non ti sente assolutamente. Santiago Otto, Daniele, stamattina ti arrivando, Santiago Otto, qui a Sassari. Il mio segnale come è sempre uguale, io sto andando con il 140, infatti sono circa una ventina e non di più. Com'è il segnale? Sempre uguale? Dani, ciao Daniele, grazie per ieri, dai, mi ha chiesto se ero io Luca di Sassari che parlavo con Claudio. Saluto da parte mia, dai. Stavo scrivendo ieri su Messenger, comunque lo sentivo basso, ma lo sentivo, eh. Cioè tu senti un ritorno da lì? Ah, lo sentivo basso, in conferma lo sentivo, basso. Non capisco, Daniel, ti saluta Luca se ci sei ancora, Luca da Sassari, quello che messaggi lì su Facebook. Ok, va bene, dai. Ti saluta, sì, ti saluta Luca, va bene. Come vedi Antonio, non ce ne vuole lineare quando c'hai una buona posizione, non ci vuole assolutamente niente, avanti, riprende e fai girare, vabbè, non ti sente, neanche Antonello sente, abbiamo già fatto le prove, aspettavo che appunto, pensavo che almeno a te ti ascoltasse, invece non sente neanche a te. Vabbè, tu probabilmente quel canale di Scala di Gioca tu riesci a passare, a me forse mi chiude un pochettino, io lo sento con 94 nel fondo, proprio basso, con l'altro ricevitore lo ascoltavo discretamente, radio di 1 era, segnale era 0, con quello professionale, con quello riuscivo a tirarlo fuori, col coso, con 94 nel fondo lo sentivo, però signori io vi devo lasciare, adesso devo fare cosa, vi saluto, vi auguro un buon proseguo di cose, conversazione, ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Luca, io faccio cuore di, se coincide ci sentiamo stasera con tutti, ciao, vabbè, le prossime, ok, senti a volte mi arriva a me, non è questione di canale, è questione proprio di apertura, di altezza, di tutto, senti a volte e io più o meno le arrivo così a lui, va bene, avanti Antonio per i saluti a Roberto. E capa, salutoni Roberto, ce la risentiamo alle prossimine, avanti Luca. Ciao Robert, alla prossima. Comunque lo sentivo basso, non capivo quello. Ma mi sembra che ho sentito che ha detto QRM, può essere? Sì, ha detto che c'è un bel QRM a Vizzano perché il tempo è bruttissimo, c'è neve da tutte le parti e quindi anche per quello non è rimasto in questo, ho capito. Però a volte giornate belle mi arriva anche Santiago Nora a me. Visto là l'ho sentito basso, non riuscivo a capire, lui sentiva basso, cioè il segnale non era via, il radio era quasi niente, quasi nulla, manco uno di radio, meno di uno qua. E allora, no niente, ma ha chiesto ieri su, siccome ho messo le baracchine a vendere, no, l'ho modificato, mi ha risposto lui, mi ha chiesto che se ero quello di Sassari che parlava con Claudio Sparviero, infatti mi ha detto che sei l'unico con cui parla di Sassari. Ma tu sei qua come, Ma voi ti faccio scuola il telefono, Abbiamo finita? Lo ti faccio! Già lo so, pensavo che almeno Roberto arrivasse, invece manco Roberto arriva, quindi è proprio la mia posizione, per quella zona, per tutte le zone così. Vabbè, sì, mi ha confermato che parla su messaggio su Facebook con te. Va bene, ok, avanti Anto, ciao Natali, buongiorno, ben ascoltato, buon anno, avanti Anto. Dalle risate, poi ce l'aveva con una persona che io conosco benissimo, non lo so, può darsi che Santa Maria di Pisa sia appena, magari c'è qualche apertura per quel posto lì, magari basso si sente, capito? Io no, negativo, la verità, no, percepivo solo QRM. Luca lì già c'è una buona posizione, siccome l'antenna, dove la stavamo mettendo, lì da Marina, una bella zona, ci facevano mettere l'antenna lì sopra, avevano problemi, uscivi meglio da lì che da casa di tua madre, lui secondo me. Ti credo, sono andato sul tetto, però ci vogliono 50 alfi qua, con quel palo lì a voglia, adesso vediamo, vediamo con una 50 alfi, sono indeciso, magari mi compro con la cuna di Marco, stavo pensando, Marco Scorpio, oppure la la cosa, la come si dice, la quella che c'è già nel doppio room. Un'antenna devi mettere come Cristiani, messa di lato, faccia detto quella faccia nuova, e scende al cavo nel tuo terrazzino, poi ci fa cavo buono, capito? Cavo buono, spendi soldi una volta, antenna buona, cavo buono, si fa passare dietro, si buca e si porta nella cameretta dove c'è il baracchino. Si fa lavoro ad hoc, fatto bene, e da lì tu picchi forte, ma forte, forte, forte, perché se sentivi Daniel con quell'antennino lì dove adesso quella ti permette quella zona di parlare con tutto il nord, sud e centro Sardegna. Sì, certo, io ho sentito QRM, basso, non riuscivo a tirarlo fuori, cra. Sai quando tu vabbè, no, ma qualcuno di noi, se basso, non riesco a tirarti fuori, così sentivo a lui. Guarda anche la zona, il tempo, cosa ne so, boh. Perché qua praticamente è verso il basso, no? A salire, tende a salire, ma lui è giù, cosa ne so, boh. Sicuramente magari mettendo un'antenna, come Dio comanda, dove la stavo pensando lui, ma anche dall'altra parte, che magari farò quando sarà, non lo so ancora, che farò la calata verso la camera da letto, perché buco da camera da letto, passo di nuovo un ribuco e vengo qua in cameretta. Così non metto in camera da letto baracchino, no, non sarà. Se lo metterò, lo metto qua in cameretta. Qui c'è anche Antonio Riserva, avanti Antu. Antonio Riserva, ma come farsi? Ah, cos'è Antonio Riserva? Era lui, No. E comunque con quella lì ti permette di andare forte, mica ti intendi una puzza d'orra in tutti i canti di Rughimi. Da lì. E non ce l'hai sul tetto, se no guai. Vabbè, e allora? E invece in campagna o a casa? Ciao a tutti, in campagna. Guarda di Nivaria. Mi sto accingendo per arrostire, sono entrato a dare un salottino, un abbraccio, un bacio. E Antu, grazie per avere tanto anche a te. Andare, visto Antu, mi sbaglio, io Antu l'ho detto, lo conosco, ci conosciamo un bel po' di anni con Antu, lo conosco la sua modulazione, la malattia di Nivaria. 25 anni per la precisione. Forse una cosa di più anche, va. Ma campa dai, io vi devo lasciare, dai, ce la risentiamo, comunque c'è un bel forte Antu, c'è un bel forte qua a casa mia. Dai, ce la risentiamo più tardi, dai che vado a fare da mangiare. Forza, coglione, ho capito, sveglio qua a pagare un matto, capite Pefro, coglione. Io ho il CD in MP3, ho il CD in MP3. Antonio, ce l'ho dato giù a Luca, a me non mi ha salutato, allora non ti saluto. Ma come non ti ho salutato? No, a me non mi è manco cagato, si può dire, ci ho fatto a Luca, lo conosci 25 anni, io che ti conosco 40 anni, manco mi hai salutato, va bene. Wow, sei crudo quando dici così, ho detto, ciao Luca, ho detto Claudio, Antonio, un abbraccio, baci, mi ha mandato anche i baci. I baci mi ha mandato, non mi sono accorto, non mi sono arrivati. Cazzo, tu lo sai, Claudio, sei sempre nel mio cuore. Sono un folcio come te. Cazzo, però mi divertivo anch'io quando c'era Paoletto. Consigliare comunque che a lui gli piacevano i ragazzini, dai 17 fino ai 19-20, tu ne avevi già 28-30. Ero già grandetto, ero già sposato io, no? Però ti ripeto, mi ha sempre rispettato la verità, A volte quando entravo nel canale dove c'ero io, e facevo passaggi, poi per favore, questi passaggi mega galattici, mi chiedo anche scusa, no, già, adesso già mi sposto di canale, siamo andati via. No, e a me entrava quando abitavo in Via Giotto a Sacro Cuore e mi dice, ma che dice, entrava incazzato, dice, ma cosa c'è, gli dicevo, no, neanche mi stai sbagliando, quando su, no, 10 ti sento su 10, su 12 ti sento su 12, e allora vattene sul 40 e vattene a cagare. Grazie, guarda, voi per tutti, ma quando poni alla portante, dove era, era forte, quando ci va un bel forte ci va la via. Beh, chiaramente, che non ti fa già corsa a lasciare, ma no, ma poi lui aveva una buona posizione, anche se era basso, però diciamo che riusciva a ricoprire quasi tutti. Beh, signore, dai, un abbraccio, vi saluto, che devo andare, che c'ho il fuoco andando. E anch'io vi saluto, dai, che vado a preparare la pappa. Ciao Luca, ciao Antonio Riserva, ciao Natalino, se si ascolta. Daniel, se si è ancora all'ascolto, un abbraccio a tre. Oristano, ci sentiamo la stasera se coincide, dai, ciao ciao. Ciao Cla, buon proseguimento. Ciao anche a Natalino, perché non l'ho sentito, però lo saluto lo stesso. Ciao Luca e ciao Antonio. Bacione. Ciao Antonio. E chi è che mi ha chiamato? Dai, è pronto il pranzo qua, io mangio un paio di ravioli, un pezzettino di pollo e buh, dai, un po' di salata, basta, poi la dieta. Cazzo, stai mangiando tanto alla banca, poi ti sei buona dieta. Ciao Natalì, un abbraccio anche a te, un buon anno. Ciao Lu, me ne sto andando a preparare il fuoco. Ciao di nuovo. Ciao Anto, ma quando è che passi a prenderti quel tablet? Ma già mai? No, questa settimana passerò, tanto sono libero adesso, prima perché non c'ero, Lu. Vabbè, fammi sapere, dai, io la mattina già sono a casa da mamma, la sera non mi truffi, poi c'ho il pomeriggio, scordatelo, ma vuoi la chitarra, scordatela. No, no, tanto di pomeriggio non sarei passato, perché di pomeriggio sto facendo un lavoro, sto dando la mano a un amico in un laboratorio, quindi sono libero solo la mattina. Andare, dai, vabbè, buon pranzo, allora a tutti, Claudio, Natalino, a te, Antonio, bomba, a tutti, a stasera, ciao. Ciao, ciao, di nuovo.